Adesso ti metto le mani in bocca come l'hip hop della giornata. Se la caga da da da da da da da da da ti ammazza, la devi pagarlo a cara. Come fanno tutti. Cazzo, cazzo ne fotti! Avevo voglia di stare a guardare in giro della classe, avevo voglia di non studiare matematica per tutta una cazzo di ora. C'è gente che parla, che strozia vicenda, come non te lo permetti di andare all'infermiera. Tanto un sacco di cose che fai, tu il temento vale, non te lo studi. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia.